Benvenute a tutti e tutti. Per buon appetito per chi sta finendo di mangiare. E, oggi abbiamo deciso di organizzare la presentazione del libro Next Stop Modena, di cui dopo questo video vi parlerò un pochino. E abbiamo deciso di introdurlo però mostrandovi questo video che è stato fatto da alcuni compagni al tempo del lockdown, in seguito alle rivolte, e che ci sembrava utile ritornare un po' anche con la testa e con il cuore a quei momenti. Non ce li siamo vissuti tutti magari insieme, però questo video ci sembra essere un'ottima introduzione per l'argomento. Buona visione. Ah, ecco. Vabbè, mentre loro risolvono i problemi tecnici con il video, volevo dirvi che dietro, di fronte al bar, c'è un tavolino con tutti degli opuscoli, dei libri che abbiamo messo lì per consultarli, che sono appunto... cioè, vario materiale sul carcere e su quelle rivolte che sono molto interessanti, e quindi approfittatene. Esatto, inoltre c'è anche il libro che presentiamo oggi, che è in vendita a 15 euro, e, di cui però metà del ricavato andrà ai familiari dei morti e di chi si è mosso, insomma, in questi anni in solidarietà a quello che è successo. Io vorrei però leggervi un estratto, una frase che Claudio ha scritto in una sua lettera, che non trovate nel libro, però appunto lui è una persona che scrive tantissimo, si scrive tanto con compagni fuori e con persone appunto fuori dal carcere, e ci tiene tanto a fare arrivare anche le sue riflessioni. Appena varcata la soglia del carcere, ti spogliano completamente nudo, ti lasciano come un verme, momento in cui ti rendi conto di avere perso tutto. L'unica cosa che ti rimane è la tua dignità, la quale passa anche attraverso la parola. Mi sembrava una buona frase che descrivesse un po' l'intenzione di scrivere questo libro. Infatti, appunto, è il libro che racconta la storia dal suo punto di vista, di quello che è successo all'interno del carcere di Modena e tutte le vicende che sono poi susseguite. Quindi, appunto, racconta proprio dall'interno la rivolta, racconta della sua vita prima, racconta di quando poi sono stati trasferiti, come sono stati trattati. Racconta poi anche della morte di Piscitelli, a cui lui ha proprio assistito, e non si limita proprio solo a raccontare con un linguaggio tra l'altro anche molto semplice, perché lui, le persone a cui si vorrebbe rivolgere sono i giovani, dice. Non si limita solo a quello, lui fa anche delle riflessioni su che cos'è il carcere. Purtroppo ha scontato tantissimi anni di carcere e quindi lo conosce molto bene, sa bene di che cosa parla, e lo descrive esattamente come molti di noi anche condividono la sua visione, come discarica sociale, come luogo dove è possibile, guardando da vicino, riconoscere il razzismo di Stato e il classismo. E, da tutta questa vicenda lui spiega molto bene come lo Stato si autoassolve, è stato tutto diciamo infangato dopo le rivolte. Fa vedere molto bene come tutti gli spostamenti dei detenuti hanno avuto proprio l'obiettivo di mettere tutto a tacere, come i corpi sono stati fatti scomparire prima dell'autopsia. E appunto noi con questa iniziativa ci tenevamo, come con lui appunto, a fare in modo che tutto questo non cada nell'oblio. come con il susseguirsi di tutte le emergenze di tutti questi anni tenderemmo probabilmente a fare, dimenticandoci tutto quello che succede, ma anche perché quello che viene descritto in questo libro, e questo lo dicono, lo dice bene anche Giulia nella postfazione, è la realtà che stiamo vivendo ancora oggi. Quello che è successo a Modena e nelle rivolte, durante le rivolte del 2020 è una strage di Stato. Sono morte delle persone, ma non dimentichiamoci che tutti gli anni muoiono, continuano a morire persone in carcere, continuano a morire persone nei CPR, e anche quelli che vengono chiamati suicidi sono stati fatti perché le persone sono rinchiuse lì, e la responsabilità sappiamo insomma di chi è, dello Stato. Dopo quei giorni di rivolte, che appunto qui viene raccontata Modena, però in realtà le rivolte sono avvenute in 80 carceri su 190 che ci sono in Italia, sono state le più grandi rivolte dopo gli anni 70 che sono avvenute in Italia. Certo, leggermente diverse, perché se negli anni 70 c'è stato più un'unione tra prigionieri politici, prigionieri comuni, che quindi portavano avanti delle lotte con delle rivendicazioni, le rivolte del giorno d'oggi sono più affine delle esplosioni di rabbia, giuste, però esplosioni di rabbia, in cui è molto difficile poi riuscire a tirare delle fila e a tirare fuori anche delle rivendicazioni, perché comunque il carcere fa questo, divide le persone, è diviso da un muro con l'esterno, ed è molto difficile rimanere in comunicazione e appunto continuare un dialogo. Questa storia che viene raccontata è un esempio di come la solidarietà sia riuscita a spezzare l'isolamento che si vive all'interno del carcere. Per fortuna c'è stata molta comunicazione, questo grazie sicuramente a dei compagni che hanno comunicato con l'interno, grazie a chi ha voluto comunicare con l'esterno, come Claudio, come anche le persone che ha incontrato Claudio, perché una cosa che appunto si sa è che dopo questa rivolta di Modena è uscito un esposto che è presente anche dentro al libro, in cui alcune 5 detenuti hanno deciso di parlare e di richiedere anche che venisse riconosciuta la responsabilità dello Stato per queste morti. E questa non è cosa scontata e né facile da fare, tant'è che il libro è scritto da uno di questi detenuti. E, appunto, però non so, si può capire quanto coraggio ci sia stato sia nel gesto dell'esposto, sia poi anche nel riuscire a scrivere questo libro, che comunque è stato un libro scritto non certo in 10 minuti, ma in 3 anni di lunghi lavori, riflessioni e scambi con l'esterno. Nel libro vengono anche, tra l'altro, raccontate nella prefazione e nella postfazione anche l'importanza che hanno avuto i parenti, che spesso sono invisibilizzati, ma un po' sono un po' i destinatari invisibili anche delle pene che i detenuti devono scontare, perché sono gli unici che riescono a dare comunque dignità a chi sta dentro, alla vita di chi sta dentro. E infatti non è un caso che queste rivolte siano proprio scoppiate all'indomani della decisione di interrompere i colloqui con i parenti. Quindi appunto sicuramente in quei giorni, e questo lo si vede bene, vabbè, nel video però sicuramente ce lo ricordiamo anche noi, erano giorni di grande paura, perché stava girando un virus di cui non si sapeva che conseguenze avrebbero avuto, giravano delle informazioni in televisione che erano spaventose, si vedevano solo morti, si è visto cosa è successo negli ospedali, nei centri per anziani, si è visto molto bene quali fossero le persone sacrificabili all'interno di questa società, e i detenuti l'hanno percepito, hanno percepito di essere... di potersi riconoscere in queste persone sacrificabili. Loro erano lì dentro, se fuori veniva detto che bisognava stare a distanza, bisognava proteggersi, dentro no, questa possibilità non veniva data, non c'erano dispositivi di protezione individuale, le carceri sono estremamente sovraffollate e le uniche persone che andavano e venivano dentro al carcere erano le guardie. E quindi di fronte a queste immagini spaventose, di fronte al fatto di non poter sapere neanche come contattare i propri parenti, perché poi non è che sia stata data l'alternativa subito dei colloqui video, semplicemente sono stati interrotti i colloqui. Ovviamente la prima reazione è stata paura, a cui poi è conseguita la rabbia. Vogliamo vedere il video? Pagate una bolletta, trovate i soldi per farlo, cercate un lavoro. Cercate un lavoro. Sgomitate per entrare in un pullman, respirate l'alito del vostro vicino. Non ammalatevi, e se vi ammalate, prenotate una visita su una stupida applicazione. Poi, aspettate. Aspettate la disoccupazione, la cassa integrazione, un bonus che vi daranno con il contagocce e poi vi chiederanno indietro. Vi sembra familiare? È il mondo di ieri con le sue certezze e oppressioni, dove esistere e farsi cullare tra le sbarre di una gabbia. Correre con il fiato corto può essere rassicurante, perché ci ricorda che è ancora concesso respirare. Quando ci si sente soffocare, è necessario un gesto radicale. Perché le nostre certezze crollino e le loro vadano in fumo. Come sono andate in fumo le loro galere. Già dall'inizio di marzo, quando le serrande calarono su tutto il paese e gli ospedali si riempirono di contagiati, è stato evidente come certe categorie di persone fossero sacrificabili sull'altare della patria. Ma in nome di cosa? Di uno Stato che non può mostrare segni di cedimento, che deve tenere le redini della situazione pur di mantenere in vita il mondo di ieri, con le sue nuove certezze e le sue nuove oppressioni. Ma cosa sacrificare? Anziani chiusi nell'RSA convertiti a reparti Covid, pendolari su tram troppo affollati, cuochi e cameriere lasciati a casa con una manciata di spiccioli dati dal governo, e infine i detenuti delle patrie galere. Dove accedere alle cure sembra quasi impossibile, costretti in sette in una cella, i detenuti si sono ribellati. In più di 70 carceri sono scoppiate proteste e rivolte, scatenate dalla paura di ammalarsi e contro il blocco dei colloqui, unica misura presa dalle amministrazioni per contenere il contagio. La risposta dello Stato non si è fatta attendere. Trasferimenti, pestaggi e 14 morti. Una strage firmata dal ministro Bonafede. Una strage che grida vendetta. Prima si è ammalato un detenuto, poi non volevano farlo uscire e infine hanno vietato di farci vedere i familiari. A quel punto è successa una rivoluzione. Hanno bruciato il carcere, sono entrate le forze speciali e hanno iniziato a sparare. Sono morte 12 persone. Salve avvocato. No, a me non hanno fatto niente, ma ho visto con i miei occhi. Non sono morti per il metadone, li hanno ammazzati coi manganelli. i responsabili di Piscitelli, tutti quelli che erano in servizio la sera che siamo arrivati e la mattina seguente. Da un po' di tempo a questa parte alcuni degli agenti che c'erano prima non li vediamo. La cosa ci dà da pensare, abbiano cercato di occultare qualcosa? Alcuni dei nuovi agenti pensano che Piscitelli sia morto in ospedale la sera che siamo arrivati. Come? Uno muore in ospedale e poi lo riportano in carcere. Altri dicevano che era arrivato già morto. Certo, lo sanno tutti che quando arriva un morto in carcere lo portano in sezione in cella, gli fanno il letto e lo mettono lì con un cellante vivo che lo veglia fino al mattino. Ma è chiaro, non ci avevo pensato. Quando ti dicevo che qua siamo arrivati in 50, di cui 45 senza scarpe a piedi scalzi, è stato fatto apposta. Le scarpe ci furono fatte levare a Modena e furono buttate tutte in un angolo. Solo dopo una settimana ce ne furono portate altre da parte della Caritas. Dal giorno seguente il nostro arrivo sono cominciati i giri di giostra. Squadrette in sezione, scudo, casco, manganello e via con la battitura. Sulle sbarre e sulle persone. La maggior parte di noi era senza scarpe. Un ragazzo straniero ha chiesto se ne potesse avere un paio e di tutta risposta si fecero aprire la cella per dargliele, manganellate a volontà. I due cellanti si sono ritrovati uno con la testa rotta e il sangue che scendeva e l'altro con le dita rotte. Qui siamo in una situazione invivibile, siamo come in una discarica dove vengono portati tutti gli infetti, siamo inotti in una cella da tre, la gente muore, la gente ha paura, non abbiamo colloqui e riusciamo a vedere i nostri cari 10 minuti tramite Skype. Il 9 marzo, dopo due giorni di battitura, le guardie hanno iniziato a provocare molto di più, facendo girare la voce di un incendio per calmare gli animi. A quel punto ci fu la rivolta. Il 12 marzo, alle 3 di notte, più di 200 guardie del reparto speciale hanno aperto le celle, una ad una. Hanno trascinato i detenuti nelle salette della sezione, prendendole a calci e pugni. Li hanno attaccati mani e piedi con delle fascette di plastica, come porci, ed hanno continuato a picchiarli con i manganelli, tanto che gli stessi si sono piegati per il troppo calore. Li facevano gridare: «Di che sei un infame! Di che lo Stato ha vinto!» Un massacro vero e proprio, tanto che quelli combinati peggio sono stati spediti nel carcere di Santa Maria Capua Vetere. Vabbè, penso che il video già abbia spiegato un pochino, si possono già evincere diverse cose da quello, di quello che è successo, penso spiegasse abbastanza bene sia l'atmosfera di quello che è stato E poi appunto anche un po' si è potuto vedere un pochino anche l'atmosfera di come era fuori. Adesso infatti abbiamo pensato anche un po' di raccontarvi quello che è successo da fuori, qua, almeno qua a Milano, visto che è quello che possiamo, che abbiamo vissuto noi, qualcuno di noi. E, però prima di questo vorremmo leggervi delle lettere di Stecco e di Claudio, che ci hanno scritto proprio per questo incontro di oggi, perché appunto gli abbiamo detto che avremmo organizzato questa presentazione, ci sembrava giusto, anche se non possono esserci di persona, che ci dessero loro un po', gli dessimo, cioè, anche delle loro parole di presentazione di questo libro, e quindi adesso ve le leggeremo. Una cosa per concludere che mi piacerebbe anche riportarvi dal libro, una domanda di cui poi penso che ognuno possa darsi delle risposte oppure ne possiamo parlare anche dopo, è appunto, che si trova nella postfazione del libro, ed è: cosa significa praticare un orizzonte carcerario che ponga al centro la solidarietà? Mi sembra che sia un interrogativo molto importante che si può appunto evincere dalla lettura di questo libro, spero anche da oggi. E poi, vabbè, alla fine del video avete visto che ci sono degli indirizzi, sono, purtroppo non sono più attuali, però appunto lì sul banchetto trovate almeno l'indirizzo di Claudio e quello di Stecco. E è importante scrivere, continuare a scrivere, questa storia non si è conclusa, i processi sono aperti e comunque il carcere c'è ancora. Quindi questo era un invito appunto a continuare a scrivere, Allora sì, abbiamo chiesto a, siccome questo libro è scritto e introdotto da due compagni che non possono esserci perché sono in carcere, appunto gli abbiamo chiesto, e incredibilmente ci sono arrivate in tempo le risposte, gli abbiamo chiesto proprio i contributi per stasera. Ora io vi leggo l'intervento di Luca Dolce, il nostro compagno Stecco, è conosciuto così, e la lettera è strapiena di timbri di censura. Lui sta vivendo nel carcere di Sanremo una condizione di detenzione veramente allucinante, non ha mai avuto un colloquio, ha la posta controllata, ed eravamo abbastanza convinti che non sarebbe mai arrivato il suo intervento, invece caso strano è arrivato addirittura prima di quello di Claudio. Allora, un saluto a tutte le persone presenti. Prima di tutto ringrazio di tutto cuore le preziose compagne che in questo progetto si sono spese e hanno creduto in questo libro, e ancora di più Claudia e la sua storia, che in realtà è una storia collettiva. Una parola mi viene in mente mentre penso a cosa comunicare a chi è fuori da questi luoghi di prigionia: menzogna. Il carcere è un ammasso di menzogne sotto forma di pulviscolo, come un cumulo di sabbia che si insinua con la sua cultura autoritaria in ogni dove, nel pensiero, nelle gesta, una fastidiosa presenza da togliersi dai piedi. Viviamo in una società oggi incapace di risolvere i suoi problemi se non in termini punitivi, irresponsabilizzanti, che nasconde la genesi del perché abbiamo bisogno di tutto questo catafalco chiamato giustizia, di Stato e borghese. La menzogna è il collante. Essa viene utilizzata per tenere in piedi la baracca del DAP, ma soprattutto per illudere le persone che credono nella struttura sociale attuale, la socialdemocrazia. Ancor di più viene usata per alimentare vane speranze tramite contentini. Ti raccontano A omettendo B. Intanto così stai tranquillo. Fatti i fatti tuoi, omologati, non creare problemi. Lo sappiamo che il carcere è un luogo dove la premialità è un odierno perno centrale del sistema. Si viene educati ad essa. Si è spinti ad abbracciarla se non si hanno delle individuali e o collettive ancore, etiche, politiche. È difficile vederne la dinamica corruttiva e sporca, base di sotterfugi e baratti anche con la propria coscienza. La menzogna di Stato dei suoi ciceroni ed oratori di ogni sorta è sempre una carta da tirar fuori dal mazzo degli strumenti del controllo di massa. Essa deve sempre essere sollecitata, alimentata con questo boccone amaro. I morti sul lavoro all'impianto Eni a Calenzano, le negligenze di Ferrovie dello Stato a Pioltello, la sordità dei governi sui pericoli di frana Niscemi, al Vajon, tutte storie intrinse di menzogne, il danno dei PFAS nelle acque potabili in Veneto, gli accordi di Mercosur, eccetera, sono tutte storie a favore del profitto padronale. Le cause di morte dei detenuti assassinati a Modena dell'8 marzo 2020, menzogne. La classe politica si compatta e parla un'unica voce quando la strada ulula la sua ribellione, quando le sezioni diventano ingovernabili, quando la cosiddetta opinione pubblica e la società civile si trasformano in qualcosa che non si accontenta di lacrime e vane parole di circostanza, di sbiaditi interpelli e comunicati o proposte di tavole rotonde. Niente confronto con chi sparge menzogne e raggiri su corpi degli sfruttati e delle sfruttate, sugli ultimi e sulle ultime. Da troppo tempo ci si accontenta di sopportare l'inganno che lo Stato sia il referente di chi subisce con la forza, l'intimidazione, il terrore economico e politico. Rompere con l'inganno è un compito improcrastinabile, necessario per respirare aria fresca che porti ossigeno alle menti che si sono tolte questa polvere fastidiosa. E così i cuori pompanti, grazie a questa pura energia, danno alle mani la forza necessaria per far arretrare il nemico. Il libro di Claudio è una testimonianza, uno strumento che va a togliere il sozzo dalla faccia sporca dello Stato. Nel farlo ne ha conosciuto il prezzo, assieme a chi con lui ebbe il coraggio di raccontare stando dentro il ventre del nemico massacratore. Forse a volte ci si passa sopra con brevi pensieri, quanto questi prigionieri hanno rischiato per voler raccontare la verità di uno dei più grandi drammi del carcere odierno. Abbiamo appena superato i 50 anni dalla riforma carceraria del 75, 1900 ovviamente, la quale era stata ottenuta grazie a due fattori indispensabili. Quel miscuglio tra lotta dentro le mura, che rispecchiava le aspirazioni di una generazione figlia di un'altra ribellione che l'ha anticipata, quella contro il fascismo e purtroppo solo in modo marginale contro lo Stato in quanto tale, nel senso più profondo e radicale del termine contro. Dall'altra parte del muro c'era una società, una gioventù che pulsava, si organizzava, che non cadeva nella retorica moralistica e punitiva sull'utilizzo della violenza liberatrice come si sente in queste ore e giorni da tutto l'arco politico istituzionale e non solo. Nulla è statico, nulla è immutabile. Chi ha i comandi di alcuni meccanismi della società lo sa e sa che la minaccia del carcere vale quel che vale. Per questo si è attrezzato di nuovi sofisticati strumenti come la farmacologia e la tecnologia e per certi versi anche con la guerra condita sempre con dosi abbondanti di nazionalismo e razzismo. Non credo necessario spendere troppe parole su chi oggi è a capo del Viminale, la sua arroganza e sfacciataggine rappresentano la parte viscerale di un governo che è esso stesso l'emblema di una classe politica europea ed occidentale che oggi appoggia e supporta un genocidio dentro un campo di sterminio chiamato Gaza. Di fronte ad argomentazioni genetiche sull'irreversibile violenza dell'uomo, li ridere chi lo criticava rispetto al caso Almastri, chi dice che il sovraffollamento è propedeutico allo scongiurare dei suicidi. Queste argomentazioni dimostrano con che altezza morale e con che persone si ha a che fare riguardo alla delicatezza del mondo carcerario e di tutte le vite che in prigione tocca. I morti di Sant'Anna, che è il carcere di Modena, quelle giornate di marzo 2020, I mesi successivi di una corrispondenza e scambi densi di responsabilità umana e solidale nei confronti di Claudio, di tutti i detenuti e detenute, i loro familiari, di chi rischia e lotta contro il carcere, sono parte pregnante della mia esperienza. Poter essere al fianco di Claudio e qui con voi è frutto della forza e dell'importanza della necessaria lotta per un mondo senza galere e gabbie. 1 febbraio 2026, carcere di Sanremo. Adesso vi leggo il contributo di Claudio, che era introdotto da una lettera di cui vi cito due parti solamente. Ciao, è con piacere che rispondo alla tua del 21 gennaio consegnatemi a fine mese. Mi scuso per l'indicibile ritardo, ma tra esami, libro, scritti ed iniziative il tempo scivola via senza che ci si renda conto. Innanzitutto grazie a voi per aver pensato alla presentazione del libro. Sono contento che possa rappresentare un piccolo contributo aggiuntivo a tutto quello che è già stato fatto. Ringrazio anche tutti i compagni e le compagne dello spazio occupato. Meno male che ci sono ancora spazi occupati autogestiti. Il nuovo governo sembra voler ripristinare tutti quegli spazi che per anni ha rappresentato la linfa vitale di molte città. Lo dico perché per anni ho frequentato i centri sociali e ne conosco e condivido l'importanza. Diversamente, guai mai a toccare tutti gli spazi di estrema destra, come quelli occupati dagli indegni di Casa Pound, che tanto stanno a cuore a quella fascista della Meloni. Ti allego un piccolo contributo che ho preparato per le presentazioni, credo che possa andar bene. Alla fine, mando tutta la mia solidarietà a tutti quei ragazzi e quelle ragazze impegnati nelle manifestazioni di Torino e di Milano, sia per quanto concerne il ripristino dei centri sociali quali spazi del popolo, e sia come forma di protesta e di dissenso verso i funzionari dell'AIS inviati in Italia da quella testa di... Purtroppo i nostri illustri governanti sono felicemente complici delle politiche razziali imposte dalla presidenza americana. Strutture carcerarie all'estero, ICE, decreti anti-Maranza e caccia allo straniero sono solo l'inizio di un ritorno alle leggi razziali, anche se propinate in modo camuffato e diverso, avallate e legittimate da un'emergenza sicurezza creata ad hoc e sostenuta da una campagna di giustizialismo mediatico che cammina a braccetto con un sempre più spregiudicato populismo penale. Ok, non voglio dilungarmi con il pippone, perdonami. Ecco, questo, e adesso vado a leggere il testo che ha inviato per la presentazione, le presentazioni. Buongiorno a tutte e tutti presenti. Oggi è un momento importante per me, poiché anche se non posso essere materialmente lì con voi, è la prima volta che entriamo in contatto. Purtroppo, come potete immaginare, sono ancora detenuto e attualmente mi trovo in carcere a Secondigliano. Innanzitutto ringrazio tutte le persone che con il loro contributo hanno reso possibile la pubblicazione di questo piccolo libro, nonché Nicola, la redazione di Sensibile alle Foglie e logicamente tutte e tutti voi per il vostro sostegno e contributo prezioso. Mi hanno invitato ad essere qui virtualmente attraverso questo piccolo scritto. Come molti sanno, almeno chi mi conosce, non amo molto parlare ed esternare il mio lato conviviale, anche se a furia di stare chiusi in una stanza a volte si corre il rischio di diventare logorroici. Quindi scusatemi in partenza se mi dilungherò un pochino. Come credo tutti sappiate, l'8 marzo 2020 mi trovavo in carcere a Modena e ho vissuto in prima persona la protesta che si è verificata e che poi è degenerata in ciò che tutte e tutti conosciamo. Nei giorni successivi i media hanno più volte sottolineato che l'elemento preminente, il fattore scatenante della rivolta, fu la negazione dei colloqui con i propri cari, anche se, almeno per quanto concerne Modena, le cose si svolsero in maniera leggermente diversa. In questo libro ho voluto raccontare quello che ho vissuto, le emozioni che mi hanno pervaso e accompagnato, ciò che ho visto con i miei occhi. Ho volutamente deciso di farlo in modo easy, come si suol dire, ossia il meno denso, politicizzato e opulento possibile. Ho scelto una linea a volte sarcastica e irrisoria per non sminuire ciò che è accaduto quel giorno e che porta con sé una tragicità irrefutabile, ma come forma di arricchimento, cercando un tratto che potesse arrivare in maniera semplice. Penso, forse mi sbaglierò, che un testo, quando è denso, diviene allo stesso tempo pesante. Questo è quello che oggi percepisco guardandomi intorno in una società sempre più veloce e dinamica, dove molti ragazzi sono sempre meno avvezzi alla lettura di quei papiri chilometrici che caratterizzavano le persone della mia età e quelli più grandi. Penso sempre che la spinta al cambiamento, alla memoria, al dissenso, eccetera, debbano essere tramandati ai ragazzi più giovani, che ne devono diventare custodi e fautori, certo, certo, dove ne condividono il pensiero. Quello che è successo al Sant'Anna non solo è da ritenersi una strage di Stato, se si considera che dal momento dell'arresto sino alla data del rilascio siamo sotto la custodia e la responsabilità e la tutela dell'istituzione, ma altresì era da considerarsi l'ennesimo caso di insabbiamento, visto i continui tentativi di archiviazione che si sono susseguiti. Logicamente questo è il mio punto di vista. Non ho scritto questo libro con la speranza di vedere agenti di polizia dietro le sbarre. Chiedere di arrestare le persone e gettare le chiavi, come spesso si sente dire, è solo la ricerca di un'inutile vendetta che non cambia ciò che è successo. Come persona non ho mai augurato la galera a nessuno, neanche al peggior nemico. Farlo non mi renderebbe né migliore né diverso dai miei carcerieri. Mantenere la memoria è diverso, ricordare cosa è successo è diverso, sperare che un giorno qualcuno ammetta i propri errori è diverso, ricordare le persone e ricordarle per la loro bellezza è diverso. Chi parla di carcere come di un vaccino essenziale per la società, di reinserimento sociale, di rieducazione, come mere forme di propaganda elettorale attraverso un populismo penale ogni giorno sempre più dilagante, come ha ricordato e come ha mantenuto la memoria delle persone che sono morte quel giorno? Ve lo dico io, come quella di tossici che sono morti dopo essersi bevuti litri di metadone, perché questo è ciò che hanno usato per giustificare la fila di corpi esanimi che occupavano il piazzale del carcere. Certo, non dico che nessuno dei ragazzi aveva assunto delle sostanze, anche io ero lì. Quello che però volevo far emergere è l'incuria verso chi stava male e andava assistito, e la nefandezza nel colpire chi sotto effetto di sostanze non solo non poteva difendersi, ma probabilmente non era neanche in grado di reggere una carica. Nei momenti della rivolta, tra il fumo, il caos, tutti hanno perso di vista tutto. Oggi è facile puntare un dito, ma la verità è che la responsabilità, se di responsabilità si deve parlare, è di tutti. La responsabilità è dell'istituzione che non ha assistito e tutelato le persone che gli erano state affidate. La responsabilità è nostra, che non ci siamo battuti per garantire la nostra sicurezza, e dei medici che non hanno certificato e disposto il ricovero in ospedale per chi non stava bene, succubi, assoggettati e accondiscendenti con le guardie. La responsabilità è degli organi che frettolosamente hanno voluto archiviare tutto. Sarebbe stato uno scandalo troppo grande a ammettere di aver sbagliato. Meglio nascondere quanto successo. La responsabilità è dei media che, sempre più in balia delle correnti politiche, hanno frettolosamente ed erroneamente divulgato informazioni mendaci, etichettando coloro che sono venuti a mancare come tossicodipendenti che avevano assunto sostanze. Le autopsie non eseguite, le dichiarazioni stravolte, montate ad hoc per l'opinione pubblica. La responsabilità di tutti coloro che sono assuefatti dalla continua propaganda contro l'immigrato clandestino, bombardati continuamente dai mezzi di informazione che mai ci parlano di tutti gli stranieri che ogni giorno si alzano per andare a lavorare in questo paese. Creano il mostro, creano e favoriscono il germinare della paura, la paura di ciò che non si conosce, la paura del diverso. Quando in realtà aprire la porta ad altre culture è solo un motivo di arricchimento sociale. La responsabilità di tutti coloro che non si sono indignati dinanzi a codesto abominio rimanendo comodi sul proprio divano. In tutto questo vorrei ricordare che anche i medici, gli infermieri e gli operatori sanitari che si trovavano lì quel giorno hanno giocato un ruolo fondamentale prendendo parte all'ingranaggio del sistema. Ai medici, che forse oggi sono qui, vorrei dire una cosa. Non pensiate che le vostre mani non siano sporche di sangue. Non innalzatevi né ergetevi a moralisti. Molti vostri colleghi si sono guardati bene dall'ammettere ciò che avevano visto. perché chiunque dinanzi a un corpo tumefatto viola e con evidenti ecchimosi si sarebbe posto delle domande, cosa che sono sicuro abbiate fatto, ma quanti di voi hanno denunciato quei corpi, quanti hanno scelto di mettere a rischio il proprio posto di lavoro, le proprie certezze, quel piccolo fazzoletto di orticello che si sono costruiti nel tempo? La paura è lecita, specialmente verso un'istituzione che per secoli ha perpetrato le peggiori nefandezze. Almeno abbiate la decenza di non nasconderla. Qui si parla di ragazzi. Oggi li chiamano maranza, in una logica di populismo mediatico che, dopo aver fondato l'odio razziale attraverso l'allarmismo, ne legittima l'esclusione dal corpo sociale. La maggior parte di quei ragazzi sono venuti dall'estero con la speranza di trovare in questo paese delle condizioni di vita migliori e non si è capito come, o meglio non si è voluto capire, non sono più tornati alle loro famiglie. La condizione attuale è a dir poco esacerbante e lo spettro dell'odio razziale è dietro l'angolo, e ciò che è successo a Modena ne è un esempio. Su 13 detenuti morti in quei giorni solo uno era italiano, mentre gli altri erano tutti stranieri. Non so se sia stato un caso, ma mi verrebbe da pensare che anche nel picchiare l'estrazione sociale, lo status contino. Non siamo esenti da ciò che succede lontano da casa nostra, perché ciò che oggi non riguarda noi, domani potrebbe caratterizzare le nostre vite. Oggi vorrei dire anche che ci sono moltissime brave persone e queste persone sono la maggioranza, persone come quelle che ogni giorno ci supportano e ci sostengono e che non ci fanno sentire soli, che spesso si espongono insieme a noi e per noi. E anche grazie a loro se si è potuto realizzare questo piccolo progetto. Un saluto e un abbraccio a tutti. Claudio. Io volevo raccontarvi un po' cosa è successo a Milano in quei giorni. Come avrete visto sia dal video sia dalle parole precedenti di qualcuno, le rivolte sono state... Grazie. Dal 7 aprile al 12 marzo ci sono state 79 carceri che... nelle quali ci sono state delle rivolte, quindi questa cosa si è sviluppata super velocemente in pochi giorni da nord a sud, nelle isole, quindi in tutta l'Italia. Era una cosa che non si era mai vista e questa cosa ovviamente ha lasciato un po' tutti a bocca aperta. Quello che è successo a Milano riguarda due carceri, il carcere di Opera e il carcere di San Vittore. E la sera dell'8 marzo, che era una domenica, lo ricordiamo molto bene perché tramite qualche parente e qualche telefonata che ci arrivò scoprimmo che all'interno del carcere di Opera erano partite delle ribellioni causate principalmente da due fattori: dalla decisione dell'amministrazione penitenziaria di bloccare i colloqui con i familiari o con qualsiasi altra persona avesse la possibilità di fare colloqui con i detenuti, e il secondo motivo era perché i detenuti non si sentivano rispetto a quello che vedevano i telegiornali o a quello che venivano a sapere di quello che accadeva fuori a proprio agio e sicuri di rimanere in carcere durante lo sviluppo della pandemia di questo virus. E quindi la sera dell'8 marzo ci furono le prime ribellioni all'interno del carcere di Opera. Sia parenti che solidali accorsero fuori dalle mura del carcere cercando di avvicinarsi il più possibile percorrendo il perimetro della struttura, e quello che si è visto ad un certo punto, non solo nella giornata della sera dell'8, ma anche nella giornata della sera del 9, dove poi sia parenti che solidali sono tornati sotto il carcere, perché al carcere di Opera le rivolte sono iniziate l'8 sera e sono durate almeno fino al 9 sera, ma anche poi più avanti. Quello che è successo appunto in questi due giorni è stato che la cosa è stata impressionante perché fuori era tutto buio e all'interno e dal carcere non arrivavano voci, non arrivava nessuna luce e nei giorni successivi, un po' da quello che abbiamo scoperto dai giornali, un po' poi dalle telefonate che furono riprese, perché in quei giorni furono momentaneamente stoppate anche le telefonate con i parenti, si scoprì che nella notte tra l'8 e il 9 marzo e anche nel giorno del 9 la polizia penitenziaria, accompagnata dalla celere, entrò all'interno delle celle delle sezioni per picchiare i detenuti e spegnere la televisione, bloccare ogni contatto telefonico, e a un certo punto decisero pure di bloccare il passaggio del vitto. Quindi tutti i detenuti si sono trovati all'interno della struttura completamente al buio, con polizia penitenziaria e celere di vario tipo che entrava nelle celle al buio per picchiarli. E così nella sera del 9, poi appunto piano piano la rivolta è sopita, poi siamo venuti a sapere di persone con ossa rotte e vari problemi di salute che non sono mai state portate in ospedale, proprio perché la polizia non voleva dare testimonianza di questi pestaggi avvenuti. Sempre il 9 marzo, fuori dal carcere, noi siamo, i solidali sono accorsi fuori dal carcere di San Vittore quando appunto per caso qualcuno passando ha cominciato a vedere una nube di fumo nero che proveniva dal carcere, e quindi tutta la giornata del 9 marzo l'abbiamo cioè solidali e parenti l'hanno passata fuori dal carcere di San Vittore, perché alcuni detenuti erano saliti sul tetto urlando libertà, chiedendo l'indulto, sempre per gli stessi motivi relativi a quello che stava succedendo, quindi la pandemia fuori, lo svilupparsi del virus, il blocco dei colloqui e quindi anche la paura che forse, cioè, avrete visto molto bene nel video dalle parole di chi l'ha fatto, la paura di stare all'interno di una struttura detentiva e di non sapere niente, di non sapere come stanno i propri cari fuori, di non sapere cosa sta succedendo, di non sapere quale sarà il tuo destino all'interno di quella prigione. E quindi durante la giornata del 9 marzo ci sono alcuni detenuti che sono saliti sul tetto con degli striscioni con scritto libertà, indulto, e che appunto urlavano fuori. Sono accorsi subito sia solidali che parenti che cercavano di fare degli interventi, cercavano di chiedere notizie dei propri cari perché erano molto spaventati e preoccupati, e ad un certo punto della giornata altri detenuti dal quinto raggio del carcere di San Vittore hanno cercato di salire sul tetto. E in quel momento lì, tra l'altro, parenti e solidali hanno cercato di, non so se avete presente come è fatto il carcere di San Vittore, ma immagino di sì, hanno cercato di girare nella direzione del quinto raggio che sta un poco dietro verso l'interno, e lì la celere, che era già schierata, che era già presente da tutta la giornata, ha caricato i solidali impedendo di raggiungere le vicinanze del quinto raggio per portare solidarietà ai detenuti. E questa è stata un po' l'unica cosa che fuori è stata leggermente impattante, direi, perché non c'è nulla di impattante di quello che è successo fuori rispetto a quello che è successo dentro. E la rivolta di San Vittore si è poi sopita quando il PM Nobili e Ruta sono saliti sul tetto del carcere per contrattare con i detenuti, che comunque chiedevano l'indulto, si lamentavano del sovraffollamento delle carceri, quindi le richieste dei detenuti che erano sul tetto non erano semplicemente solo legate alla questione dei colloqui, del blocco dei colloqui e della svilupparsi della pandemia, ma erano legate alla situazione carceraria in generale all'interno del carcere di San Vittore e ovunque, perché come sapete comunque tutte le carceri sono tuttora sovraffollate o comunque non ci sono le strutture sanitarie necessarie e tutte le cose che sappiamo del sistema carcerario italiano. E queste sono state un po', diciamo, le due giornate principali nella nostra città, qua a Milano, quindi la sera dell'8 marzo e tutta la giornata del 9. Dopodiché quello che durante tutta la pandemia i solidali hanno deciso di fare è stato quello di continuare a tenere dei rapporti sia telefonici che visivi con i parenti dei detenuti, sia fuori dal carcere di San Vittore che dal carcere di Opera, e continuare, nonostante appunto il divieto di circolazione e quant'altro, di non rispettare le regole imposte dallo Stato, ma di continuare ad andare a fare dei saluti e delle presenze solidali fuori dalle carceri. E questo l'abbiamo fatto per tutto il periodo della pandemia. insieme ai parenti, e durante questo periodo comunque sono stati scritti dei testi, alcuni dei quali li trovate sul banchetto, altri sicuramente li trovate in rete. E, ecco, diciamo, questo è un po' quello che è successo nella città di Milano. È stata sicuramente una cosa estremamente inusuale, molto impattante e anche molto, cioè, molto bella. Cioè, comunque sono delle immagini che ti rimangono un po' dentro per sempre, mi viene da dire. E l'ultima cosa che ci tengo a dire è che comunque, nonostante le rivolte che ci sono state durante la pandemia, le rivolte nelle carceri ci sono ancora. Vorrei ricordare semplicemente che il 1° marzo di quest'anno c'è stata una rivolta nel carcere minorile qua a Milano al Beccaria, e qualche giorno prima c'era stata una rivolta in una sezione del carcere di Catania. Quindi questo è per dire che, nonostante la pandemia sia passata e nonostante ci sembra di essere tornati tutti alla normalità, comunque la questione delle carceri è ancora una questione di cui bisognerebbe parlare e sulla quale dovremmo trovare delle modalità e delle pratiche di lotta, perché non solo i compagni ma anche tutte le persone che sono rinchiuse dentro comunque si trovano sicuramente in uno stato di disagio e degrado totale. Adesso avevamo pensato anche di far intervenire la nostra avvocata presente in aula per parlare del DDL. Se vuole fare intervento adesso, se no proviamo a... Ecco. Bene. Poi magari facciamo... proviamo, se ci sono delle domande, proviamo a fare un po' di riflessioni sulle cose dette. Buonasera a tutti. Ma io più che dei DDL, dei decreti di cui so molto poco, perché specialmente gli ultimi non sono ancora entrati in vigore, a parte il decreto sicurezza che è entrato in vigore il 25 febbraio, l'ultimo che è stato fatto, volevo sviluppare una riflessione su quello che è stato il seguito legislativo di queste rivolte del 2020, perché hanno avuto un seguito specifico in realtà, perché nel decreto sicurezza del 2025 sono state, quello che diciamo era partito come DDL poi è diventato decreto legge, sono state inserite due previsioni che sono proprio lo sviluppo e la risposta legislativa dello Stato a quello che è successo. E uno, vabbè, è il, ne parleremo dopo, è il reato di rivolta nelle carceri, proprio specifico su questo tema. L'altro, che è anche interessante perché è curioso, diciamo, è un'aggravante che è stata inserita nel reato di che esisteva già, di istigazione a disobbedire alle leggi, che era previsto già dall'articolo 415. Ecco, è stata inserita un'aggravante che prevede che la pena è aumentata se il fatto è commesso all'interno di un istituto penitenziario, ovvero a mezzo di scritti o comunicazioni diretti a persone detenute. Ora, questo è una... perché è curioso? Perché generalmente tutti i reati di istigazione sono punibili quando sono commessi pubblicamente. E invece qui all'interno di un istituto penitenziario sembra difficile sostenere che sia commesso pubblicamente, e ancora di più a mezzo di scritti o comunicazioni dirette a persone detenute. Quindi qui quello che fa riflettere è che sembra che sia una previsione diretta a colpire semplicemente la manifestazione del pensiero, anche quando non ha possibilità, diciamo, di provocare reati immediatamente. E quindi diciamo che ha questo aspetto particolare che diciamo fa pensare, perché indubbiamente è una forma di criminalizzazione del dissenso, fondamentalmente slegata da qualsiasi tipo di pericolo. E poi collegato, appunto, 415 bis, proprio il reato di rivolta all'interno di un istituto penitenziario. E la prima cosa interessante da notare è che questo reato è inserito, il decreto sicurezza lo inserisce tra i reati a tutela del personale delle forze dell'ordine. Capito? È inserito proprio in quella sezione lì. Lì ci sono, non so, le norme a tutela della sicurezza urbana piuttosto che dell'ordine pubblico, eccetera, eccetera. Questo è inserito come tutela del personale delle forze dell'ordine. E questo si inserisce in un generale filone, nel senso che ci sono tutte queste norme che sono fatte a tutela del personale delle forze dell'ordine. Per esempio, sempre nel decreto sicurezza c'è un'aggravante specifica per la resistenza pubblico ufficiale quando è commessa contro agenti o ufficiali di polizia giudiziaria. Quindi è più grave se tu commetti una resistenza pubblico ufficiale contro un agente piuttosto che contro il segretario comunale, per dire, o qualche altro pubblico ufficiale. Perché questo si inserisce all'interno di un'idea che traspare tante volte da dichiarazioni di politici vari. Si è sentito dire: ah, chi tocca un poliziotto bisogna metterlo in carcere, buttare via la chiave perché è una roba. Tutte queste, queste dichiarazioni poi si traducono effettivamente in questo tipo di norme che vanno a sostanzialmente a designare il poliziotto come una emanazione dello Stato, quindi come un cittadino sacro sostanzialmente, proprio in quanto è quello che porta la forza dello Stato, la superiorità dello Stato rispetto al comune cittadino, e quindi chi lo tocca è un qualcosa di gravissimo. Questo ripropone l'idea che stava alla base delle norme del fascismo, chiaramente, nel senso che è proprio l'ideologia fascista quella per cui l'emanazione dello Stato totalitario è qualcosa di sacro, mentre in teoria nello Stato democratico il poliziotto avrebbe l'uso della forza in teoria per garantire a tutti i diritti, ecco. Questo tipo, questo stampo di quest'idea, sta permeando sempre di più, e anche quindi nell'inserimento di questo reato di rivolta all'interno di un istituto penitenziario. E poi ci sono le previsioni di questa norma. Praticamente quella che più ha provocato perplessità è il fatto che sono puniti anche quelle rivolte che si attuano, secondo loro sono rivolte, tramite atti di mera disobbedienza, di rifiuto di adempiere a un ordine. Diciamo che quello che pervade tutto l'ordinamento è che se uno, insomma, si limita a non fare niente, quindi a contravvenire a un ordine, generalmente queste condotte non sono ritenute punibili. Per esempio la resistenza, se uno sta lì e fa niente, si limita a non collaborare, ecco, non può essere punito. Qui invece c'è questa previsione che tra l'altro è riportata proprio nel testo, ed era stata una delle cose più che avevano più provocato perplessità. E nonostante questo, poi quando sono andati a convertire in legge questa norma l'hanno mantenuta. E quindi sostanzialmente cosa provoca questo? Sostanzialmente riporta l'idea, anche qui, che si è vista in vari tipi di reati, del punire più per quello che si è che per quello che si fa, cioè anche per azioni che chiaramente non possono provocare pericolo, ma semplicemente per il fatto di non collaborare con l'azione dello Stato provoca questo reato. Cosa significa questo? È una evidente disumanizzazione ulteriore del detenuto, perché intanto è una delle varie regole dello stato d'eccezione, cioè per i detenuti si introduce una eccezione rispetto alle norme generali che valgono per tutti, per cui la resistenza passiva non è mai considerata reato, ma un'ulteriore disumanizzazione, perché a differenza del cittadino normale il detenuto non ha nemmeno questa, nemmeno riconosciuta questa possibilità di semplicemente manifestare con l'unico mezzo che spesso si ha, cioè quello di, semplicemente di contravvenire all'ordine. Quindi sembrerebbe che non solo una battitura, ma anche semplicemente non rientrare dall'area quando te lo impongono, possa far scattare questo tipo di reato, che prevede delle pene elevatissime, perché si può arrivare a 8 anni così semplicemente, diciamo. Per cui anche qui sostanzialmente quello che si punisce in realtà è una anche qui una libera manifestazione del pensiero. Quindi all'interno di queste di quelle che sono state le rivolte, che hanno visto delle violenze enormi delle forze di polizia, ecco, si è introdotta una possibilità addirittura di una punizione con delle pene elevatissime anche per questi tipi di fattispecie. Questo è quello che ha provocato, che hanno provocato queste rivolte, una risposta prettamente securitaria, e che quindi, diciamo, ben evidenzia l'atteggiamento dello Stato rispetto a questi fenomeni, cioè quello di semplicemente di non solo di inasprire le pene, introdurre nuovi reati, ma anche quello proprio di porsi come di trattare il fenomeno in una maniera del tutto inadeguata. E questo, diciamo, ripropone l'idea proprio dello stato d'eccezione. Questa è stata la norma che è stata fatta in seguito a queste rivolte. Tutti gli altri reati aggravanti che sono state introdotte nei vari decreti sicurezza, e anche in quelli che stanno uscendo adesso, si inseriscono a pieno titolo in questa linea di pensiero. Ok, non solo quindi tutte queste cose che sono state inserite per chi diciamo aggredisce i medici, il personale scolastico, queste norme qui si inseriscono sempre all'interno di un'idea di stato d'eccezione che viene fatto attraverso le varie situazioni che si vengono a creare. Crea una situazione e si agisce con una norma ad hoc. E come vengono inserite queste norme ad hoc? Con la decretazione d'urgenza, cioè non con una, si diceva, è normale che, voglio dire, si creino dei fenomeni, quindi uno dica vabbè, faccio delle leggi perché, ma con la decretazione d'urgenza, cioè quest'idea che tutte le cose sono tutte emergenze, in tutte bisogna agire subito, in tutte bisogna agire sull'onda dell'emotività, perché quello poi è un metodo di propaganda che però fa presa, diciamo, direttamente sulla popolazione, per cui, diciamo, giustifica anche. Era un po' quello che diceva Cossiga quando facevano tutte quelle norme negli anni 70, no? Diceva bisogna inserire anche agenti provocatori che facciano scoppiare apposta delle rivolte, in modo che la gente, poi forti di questa impressione, di questo impatto sulla popolazione, si possa poi violare tranquillamente, bellamente, tutte le norme che la Costituzione ci imporrebbe per inserire queste norme qui, in modo che nessuno, insomma, faccia opposizione a questo, perché le considera normali. E questo è, tra l'altro, lo stesso tipo di atteggiamento che si è avuto durante la pandemia, cioè tutte le limitazioni introdotte nella pandemia, palesemente incostituzionali, palesemente irragionevoli, venivano fatte passare per norme a tutela della salute di tutti, no? Quindi, diciamo, tutta una serie di cose che poi sono state, quando sono state poi arrivate ai tribunali, alle varie, si è arrivati al dunque, insomma, sono state tutte riconosciute tranquillamente irragionevoli. E questa quindi è, diciamo, un modo di procedere, una cosa fatta scientemente, ecco. Per cui, secondo me, quello che si può notare è che tutta la legislazione emergenziale è fatta su quest'onda di emotività, e anche quello che viene fatto passare, come sono state raccontate nei media queste rivolte, è automaticamente un passaggio di un discorso generale che viene fatto. Considerazione politica che si può trarre da questo, che non è tanto poi la norma in sé, perché quello dipende dall'applicazione pratica, cioè uno può prendere le norme più restrittive, applicarle in un certo modo, può prendere le norme più liberali, più belle, che sembra che è tutto bello, e applicarle in una maniera poi diciamo restrittiva, e quindi arrivare alle stesse conclusioni. Il problema è il messaggio che viene mandato con queste norme, Il messaggio è quello che diciamo vi ho tentato diciamo di sintetizzare in queste riflessioni un po' sgangherate, perché le ho fatte così un po' al momento, insomma. Però il messaggio è quello, ed è quello che è poi la cosa più importante, perché, ripeto, non importa poi come vengano applicate, quello che interessa al legislatore che queste norme fa è far vedere il messaggio. Alle rivolte io rispondo in questa maniera. È lo sfondo che diciamo che permea tutta la legislazione, non solo d'emergenza, ma anche quella ordinaria, diciamo, che viene fatta, e che è un discorso, questo l'ho detto tante volte, qualcuno l'avrà sentito 10.000 volte, dirà questo dice sempre le stesse cose, ma è quello che permea un discorso, diciamo, diacronico. Si vede nel tempo quello che è il disegno, il climax, guardando le norme da 10, 20, 30 anni a questa parte, e vedendo come si sono evolute, si può cogliere il disegno proprio in un climax che sembra non avere fine. Ecco, queste sono riflessioni che mi sono venute un po' così, diciamo, sull'onda di quello che ho visto formarsi nei vari anni. Insomma, io faccio questa professione dal 2005, quindi insomma, vedendo anche come si sono evolute le cose nell'arco, semplicemente da quando ho iniziato a fare questo lavoro, è quello che ho potuto cogliere. Ecco, quindi questo è quello che vi volevo dire, un po' in modo appunto sconclusionato, ma è quello che mi è sembrato possa emergere da un'analisi di primo acchito, che poi andrebbe chiaramente approfondita, ma può essere, già queste riflessioni possono essere, diciamo, interessanti per mettere alcuni punti. Poi non so, c'è qualcuno che vuole chiarimenti, cose, perché ho detto cose un po' così. Ma sì, non so, se vogliamo fare un momento di domande, oppure abbiamo quasi finito in verità. Quindi direi forse due cose sulla solidarietà, poi se vi va bene lasciamo aperto il dibattito. E, vabbè, prima una cosa, ricollegandomi a quello che ha appena detto Benedetto, è stato detto questa sera, ma ci tengo a rimarcarlo. Queste rivolte del 2020 sono state è stato un grosso evento, è stato un grosso evento per la storia delle rivolte in Italia nelle prigioni a livello storico, perché appunto si è detto prima delle rivolte così ravvicinate nel tempo e così diffuse nelle strutture carcerarie non avvenivano dagli anni 70, e questo è importante dirlo, perché appunto è stato un evento che è stato sicuramente causato da dei motivi ben precisi, quindi l'avvento di una pandemia, una paura molto grossa, il sapere più chiaro di quello che noi possiamo vedere da persone che stanno all'esterno, di quanto potevano essere dei soggetti sacrificabili le persone in quel momento detenute. Questo atto di rivolta non è passato diciamo inosservato agli occhi dello Stato, e da allora si è parlato della, diciamo, della repressione immediata che è avvenuta sui corpi dei detenuti, dei classici modi di annientamento dei soggetti, per cui trasferimenti lontano da casa, lasciare senza scarpe. Ci sono delle sottigliezze nei racconti che sono anche emersi dalle voci delle persone detenute, che però fanno ben capire dove si insinua poi la violenza anche dello Stato, quando va a colpire in maniera anche fine e chirurgica. Ma non è finita lì. Poi magari parleremo dei processi, se a qualcuno interessa più entrare nel merito di ciò che si è mosso da quelle vicende. Quindi da una parte i processi che sono nati in parte anche su istanza dei detenuti, quindi quelli contro le guardie, che sono, vabbè, chiaramente stati quasi tutti archiviati, e invece quelli che poi sono stati mossi dai detenuti. Rispetto a questo mi viene da dire appunto che il punto a cui siamo arrivati oggi è frutto di quello che è successo nelle carceri in quei giorni, ed è stato il lavoro che lo Stato ha messo per affinare ancora di più la repressione all'interno delle prigioni, come se fosse necessario, oltre alle botte, oltre al fatto di essere in mano a un'istituzione che è per molti mortifera, effettivamente. Però appunto il fatto di aver poi processato delle persone per quelle rivolte, anche per il reato di devastazione e saccheggio, già fa un reato che chiaramente sta venendo utilizzato anche all'interno per colpire le lotte che si muovono all'esterno, che però più difficilmente ha trovato delle sponde poi effettivamente per passare. È passato in certe occasioni nelle prigioni, come nei CPR, questo è un reato che è stato utilizzato in maniera vasta e senza trovare, diciamo, nessun tipo di opposizione. E quindi sì, i detenuti poi sono stati anche indagati, alcuni condannati per questo, fino poi ad arrivare appunto a un lavorio che ha permesso allo Stato di legiferare, di creare poi una situazione per cui al momento è esclusa ogni possibile atto di, mi viene da chiamarlo, di disobbedienza, nel senso che forse persino lo sciopero della fame non è più contemplato come un atto lecito. In certi casi è possibile, cioè sarebbe possibile farlo, ecco, su una base di un'interpretazione fantasiosa, ma è possibile. E questo secondo me pone al centro la questione di che cos'è il carcere per lo Stato. L'abbiamo anche visto durante la mobilitazione per Alfredo, quindi è assolutamente un elemento fondativo della nostra società a cui lo Stato non può rinunciare, e quindi si vede come si arma per difenderlo attraverso l'omertà, attraverso l'insabbiamento e il silenzio e attraverso le leggi. Per questo è importante secondo me creare delle situazioni come queste, in cui si parla di cose avvenute anche anni fa, in cui magari qualcuno non era presente, perché è stato citato anche dai contributi di prima, la memoria resta un elemento nostro che deve andare a rinforzare le nostre convinzioni e a spingerci appunto a portare avanti le lotte che continuiamo a portare avanti. E ci tengo a soffermarmi sul fatto che il fatto che noi oggi siamo qui è veramente per uno sforzo importante di qualcuno che in quel momento e anche adesso è ancora nelle mani dello Stato, e questa cosa penso che sia stata resa possibile solo da dei piccoli gesti che noi spesso la parola solidarietà è una parola che può essere molto vasta, e a volte, e anche soprattutto per il carcere, si fa per me di gesti anche in verità molto concreti. E questi gesti molto concreti sono stati i contatti che alcuni compagni hanno cominciato a tenere o avevano già con delle persone detenute, e quindi il fatto che oggi esista una storia che dica quelle morti sono morte di Stato, perché quella storia qualcuno ha avuto il coraggio di raccontarla, e ha avuto il coraggio di raccontarla perché ha avuto una tutela e ha avuto qualcuno di fianco che ha detto: noi ci siamo, questa storia sappiamo che è vera e con te la vogliamo portare avanti. Non mi riferisco solo a Claudio, perché appunto poi le testimonianze che si vedono nel video parlano di lettere che sono arrivate in vario modo all'esterno, e questo è ancora un fatto importante per quello che riguarda il carcere, perché il carcere lavora bene se lavora in silenzio e non osservato, se ci si mette a guardarlo, se più persone lo affrontano per quello che è e svelano il segreto di quello che è, le persone all'interno sono anche più sicure. Questo è un mio convincimento personale, però io penso che questa roba sia così, che sia importante tutelare le persone dentro e con dei piccoli gesti solidali, e questo allarga anche un po' la forza al di fuori, perché chiaramente a volte ci si sente impotenti di fronte a delle strutture così affinate per reprimere, così affinate per annichilire, e però effettivamente il carcere riguarda tante persone, non sono solo i compagni e le compagne che ci finiscono, non ci sono solo i parenti dei detenuti che ne sono coinvolti, ci sono appunto tanti detenuti, tante persone che attraversano il carcere e tanta parte anche di società, di persone che vorrebbero mettere uno sguardo di altro tipo su queste strutture. Quindi per chiudere, vabbè, con una nota positiva, perché chiaramente se guardiamo a quello che lo Stato è capace di fare, a quello che è capace di fare su dei corpi già rinchiusi, ci resta un po' di impotenza. Penso che appunto il concetto di solidarietà sia una cosa viva, non sia relegata a delle cose del passato o solo a ricordare delle storie avvenute. Le storie che sono capitate ci devono solo mettere più energia per continuare ad andare avanti e a farci forza di questo. Io penso che questo libro e tutta questa storia, che per me è molto importante che sia uscita e che venga raccontata, perché altrimenti la narrazione dello Stato è che non è successo niente nel marzo 2020 nelle prigioni italiane, nessuno è morto o erano dei tossici, e la contronarrazione la possiamo fare noi, e ogni pezzetto che ci mettiamo è importante. Quindi sicuramente bisogna ringraziare Claudio per il coraggio che ha avuto, ma dobbiamo anche ringraziarci per esserci stati, per aver creato dei legami e dirci anche che sarebbe utile continuare. Io mi fermerei. Sì, infatti, cioè, se vogliamo adesso chiunque voglia fare riflessioni, domande, può farlo. Io, prima che poi magari qualcuno si alza, volevo ricordare anche che sul banchetto c'è un calendario di iniziative e appunto invitare tutti il 22 marzo al presidio che ci sarà a Opera. Volendo si può partecipare anche a un volantinaggio che ci sarà il 14 marzo. Insomma, sono tutti momenti in cui possiamo dare la nostra solidarietà insieme, mi sembra importante ricordarlo. Solidarietà da dentro fuori anche all'interno sia presentare importanza per combattere il sistema carcere, credo appunto come ecco da scritto un po' adesso c'è anche il nuovo regista di cantare una cosa di solidarietà, mi chiedevano che rispetto a si è parlato anche tanto che si è citato alla fine del SINDEF appunto anche ci piano con circa quindi si rivolge a quei perché no è vero, avevamo pensato anche di dirlo però ci siamo scordate ha messo in piedi questo sindacato interno alle carceri, non è facile, è tutto un po' complesso, ci ha mandato lo statuto, tutti i moduli di iscrizione, abbiamo provato ad aiutarlo a mandarlo a tutto il nostro indirizzario, intendo di Olga, e lo stesso ha fatto un po' la cassa anti-rap. Per il momento le cose che hanno, le iniziative che hanno messo in piedi sono più legate appunto a questioni di rivendicazioni per il lavoro interno. Onestamente ultimamente non ho degli aggiornamenti molto recenti. L'ultimo è proprio questo, che avevano fatto una causa per i lavoratori interni, che forse è la cosa che può riuscire un po' meglio, perché diventa un pochettino complicata. Comunque lui è una fonte inesauribile di idee e l'hanno messa in atto con tutti i suoi crismi, cioè evidentemente è stato aiutato da chi sapeva come fare, quindi c'è tutta una documentazione che non abbiamo portato stasera, ma se qualcuno è interessato poi ce l'abbiamo a Olga, no? Insomma, statuto, moduli, quindi se c'è qualcuno che magari ha delle persone, si iscrive con qualcuno in carcere, gli possiamo dare il materiale per iscriversi al sindacato. Di più non ricordo. Basta, comprenderebbe anche ci sono anche detenuti che possono lavorare oppure non ho capito cioè questo film comprenderebbe secondo Claudio che aveva provato che erano sui piedi soltanto detenuti che possono lavorare o anche cioè tu dici da quanto io ho capito è stato fondato in generale per raccogliere rivendicazioni di vario genere proprio sulla vita di un detenuto. Poi, come diceva già lei, probabilmente quello su cui più probabilmente si realizzerà sarà sul lavoro, o almeno è una cosa nuova per l'Italia, magari in altri paesi c'è. Esiste già in Italia, non si ha esperienza, quindi è un po' tutto nuovo. Ecco. Cioè, ovviamente ha aperto anche questa proposta di Claudio e di tutti gli altri, perché poi Claudio non è che è da solo, è uno che è molto bravo a tenere i contatti, ma non è solo. E ha creato anche un dibattito, diciamo, tra tutte le varie persone che si occupano di carcere, perché ovviamente cioè, ci sono anche criticità rispetto al creare un, cioè, abbiamo visto delle rivolte che negli anni 70 magari che si sono create spontaneamente, però organizzate insomma su base orizzontale. Ci sono state rivolte che magari hanno, sono state più di pancia, e questa cosa ovviamente potrebbe creare anche un intermediario, per esempio, no? E quindi l'interrogativo che molti si sono posti è: si riuscirà a non creare come fuori quella delega di rappresentatività per le proprie istanze? Questa cosa può alimentare le lotte all'interno del carcere oppure non so, inibirle? È tutto un dibattito su questo. Vabbè, se non ci sono altre domande possiamo chiudere. Vi ricordiamo di nuovo il presidio Opera, ci teniamo a far sì che questo presidio abbia la più larga diffusione possibile. Sarà, diciamo, più o meno il momento culminante di una serie di iniziative che abbiamo messo in piedi per ricordare anche la lotta che Alfredo ha portato avanti contro il regime di 41 bis, l'ergastolo ostativo col suo lungo sciopero della fame, e soprattutto per portare un piccolo contributo al, di ricordo e di rilancio al, al momento in cui ci sarà il possibile rinnovo per lui in questa primavera del regime di 41 bis. Quindi come singoli, assemblea allargata, non so come ci siamo chiamati, comunque avevamo pensato di tornare sotto il carcere di Opera, che è un carcere per, è uno, è il carcere milanese, diciamo, un po' più difficile non da raggiungere, è un po' più difficile avere solidali sotto le mura. E quando c'è stata la mobilitazione per Alfredo si è riusciti a essere veramente tanti e tante là sotto. È stato un bel momento, soprattutto quando Alfredo era lì detenuto, se non ricordo male c'è stato un bellissimo e grosso presidio, e quindi l'invito è appunto di partecipare e di seguire anche le altre iniziative che dovrebbero essere scritte sul banchetto. Grazie a tutte e tutti di essere venuti.